Sono tutte uguali. Se prendiamo il dipinto di Pablo Picasso, Guernica ne è la dimostrazione. Guernica è il nome di una cittadina basca dal triste primato. Fu, in assoluto, la prima città al mondo a subire un bombardamento aereo, la sera del 26 aprile 1937, ad opera dell'aviazione militare tedesca. La cittadina di Guernica non era teatro di azioni belliche, cosicché la furia distruttrice del primo bombardamento aereo della storia si abbatté sulla popolazione civile uccidendo soprattutto donne e bambini. Le figure deformate di Guernica, oltre a derivare dalle ricerche di Pablo Picasso, contribuiscono a rendere drammatico il racconto. Infatti le forme sono taglienti, aguzze e sembrano lacerarsi a vicenda. Le bocche delle donne e degli animali urlano il loro dolore e la loro paura. Ecco, alla fine le guerre sono tutte uguali. E quindi quel quadro dipinto da Pablo Picasso parlava di Guernica, ma alla fine parlava di qualunque altro luogo. Parlava, per esempio, basta cambiare il nome della città, parlava per esempio di Mariupol, no? Di quello che è accaduto all'ospedale pediatrico di Mariupol. Allora basta che tu tolga Guernica e metta Mariupol, ed eccolo qua. Lo guardi e vedi che eccola là. Una donna che a Mariupol, nell'ospedale pediatrico, si mette là a piangere. E dietro c'è la finestra, la dipinta Picasso, la finestra dell'ospedale pediatrico di Mariupol. E poi le fiamme che escono dall'ospedale pediatrico di Mariupol. E poi Picasso ha dipinto i volti che guardano e gridano. Ha dipinto una donna là che a Mariupol grida con un bambino in fasce. Ha dipinto un uomo che muore. Ha dipinto una lampada accesa, che neanche la lampada è accesa nell'ospedale di Mariupol. Ha dipinto gli animali che diventano come esseri umani. Ha dipinto il dolore. Ha dipinto il silenzio. Ha dipinto tutto questo, Picasso, no? Però la guerra va avanti lo stesso. Il 16 settembre 1943, Seconda Guerra Mondiale, ha segnato Puccino per sempre. Bastarono due sventagliate di mitra per stendere al suolo immobili al centro di Piazza San Vito quei 14 bambini che poco prima si divertivano non capendo il perché l'Italia era attaccata ed era in guerra. Ma c'è una sorta di storia nella storia di quei 14 bambini che caddero sotto i bombardamenti mentre erano in Piazza San Vito a giocare con la palla di pezza. Buonasera Alfio, buonasera Annalisa. Sarà venire con noi anche Enzo Pandolfi, purtroppo ha avuto un problema. Non può essere in presenza. Abbiamo fatto vedere, piange ancora il cuore, sono 80 anni passati da questo tragico episodio di Puccino, dove nessuno vorrebbe dimenticare, questa è la guerra. Penso che Andolfi aveva scritto un libro su questo. Vite in gioco. Parlava proprio questa strage di questi ragazzi. Vabbè, comunque ti ringrazio Alfio della presenza, giornalista e copresidente Un Ponte Per, poi Annalisa di Agro Today, intervieni quando ritiene più opportuno e ricordo a tutti quanti che come sempre potete inoltrare le vostre domande. Alfio, tu mi pare che sei stato a Kiev con la carovana della pace, guidata per Un Ponte Per e dal movimento non violento. Esatto, siamo stati nel settembre. Un po' le tue impressioni quando sei andato lì. Bene, intanto era la seconda volta, la prima volta con la prima carovana stop the war now. Abbiamo portato anche un consistente aiuto umanitario e prelevato al nostro ritorno diverse decine di donne, profughi con qualche bambino sostanzialmente, perché come si sa per la legge marziale ucraina i uomini dai 18 ai 60 anni non possono abbandonare il paese. E quando siamo andati a Kiev l'abbiamo fatto con un intento, diciamo, più politico, quello di andare a incontrare pezzi della società civile ucraina e anche le forze che si oppongono alla guerra in modo non violento o si oppongono all'invasione in modo non violento. Abbiamo incontrato diversi movimenti pacifisti, alcuna delegazione dei quali si trova in queste ore proprio in Italia. Stamattina abbiamo svolto una conferenza stampa con Daria, Olga e Caterina, che sono rispettivamente una pacifista bielorussa, una pacifista russa e una pacifista ucraina. È stata una bella conferenza, una dimostrazione di una diplomazia dal basso che tenta in qualche modo di sopperire al fatto che non esiste nessuna diplomazia dall'alto, perché dal 24 febbraio di un anno fa parla solo il cannone, non parlano le cancellerie, non parlano diplomazie, si continua a rifornire di armi in questo conflitto, ci sono più di 200.000 morti. Come ha giustamente detto il generale Mark Milley, capo di Stato Maggiore della Difesa degli Stati Uniti d'America, questa è una guerra che non vedrà nessun vincitore, dunque è inutile continuare. Tutte le guerre non hanno mai vincitori. Specialmente, diciamo, le guerre del nuovo ciclo, quella cominciata con la guerra del Golfo nel 91 e che ha segnato la fine di quella speranza eccezionale presentata alla caduta del muro di Berlino, allo scioglimento di almeno uno dei due blocchi, quando si decise che non aveva vinto l'umanità la guerra fredda, l'aveva vinta uno dei due blocchi, la NATO, e si rilanciò la NATO nel 91 pianificando una guerra del tutto illegale contro l'Iraq, le guerre dei successivi 30 anni. L'effetto è quello di adesso, internazionale ormai sotto gli stivali, ci sono tantissime guerre in giro per il mondo è più insicuro, ci sono guerre dimenticate, non solo quelle di cui stiamo parlando adesso. Io parlavo proprio l'altro giorno ad un'iniziativa della guerra in Etiopia che ha fatto in 3 mesi 600.000 morti, cioè più del triplo di quello che ha fatto in un anno la guerra in Ucraina. Devo ringraziare, anche in questa occasione, per ringraziare i lavoratori portuali del porto di Genova che l'altro giorno hanno bloccato una nave carica di armi italiane destinate alla guerra in Etiopia, a dimostrazione che, insomma, teniamo nascoste le nostre vergogne, anche se da queste parti la nostra industria militare, industria bellica è concepita, viene vezzeggiata come un'eccellenza italiana, no? Purtroppo le armi servono per uccidere, se vengono inviate sul campo prima o poi vengono usate, occorrerebbe cambiare strategia prima che siano potenti, che stiamo ballando sul dinamico. La situazione in Ucraina è gravissima e dimostra in concreto la validità e la necessità storica sempre del pacifismo. Secondo te, come si può convincere le parti a sedersi a un tavolo negoziale? Se vogliamo veramente la pace, dobbiamo lasciare a Putin una via d'uscita? Sì, allora, il problema è che questa è una guerra, ci sono più guerre in questa guerra. C'è la guerra della Russia contro l'Ucraina, c'è la guerra della NATO contro la Russia, c'è la guerra degli Stati Uniti contro influenza cinese. E dunque, come disinnescare questa cosa? Sicuramente una altissima responsabilità ce l'hanno le potenze principali. Questa in larga parte è una guerra che per procura, ormai è talmente evidente dagli armamenti che abbiamo mandato in Ucraina che la NATO è coinvolta, gli Stati Uniti sono coinvolti con decine di miliardi di euro in uno sforzo bellico senza precedenti. Chiaramente le responsabilità della Russia non vanno negate. Io dico che la NATO ha creato tutto questo. In effetti. Sicuramente la NATO. Più che altro l'America. Il fatto che dopo il 91 si sia scelto non un'integrazione europea pacifica con una sicurezza comune, intendendo per Europa anche quella parte della Unione Sovietica, compresa la Russia, del nostro continente, che andava in qualche modo aggregata, ma questa sarebbe stata l'Europa dei popoli. Se preferite inizialmente l'Europa dei mercanti e dei mercati, e poi l'Europa della NATO, perché non ci dimentichiamo che non c'è un paese dell'est europeo, ex patto di Varsavia, che sia entrato nell'Unione Europea senza prima aver aderito alla NATO. Insomma, questa è una guerra degli, era la quarta guerra che volevo dire, era la guerra degli Stati Uniti contro l'Europa, contro una delle potenze economiche più importanti del pianeta, e in questo modo l'Europa si è allineata completamente agli Stati Uniti d'America, dalle componenti più oltranziste. Putin diciamo che è il principale responsabile, ma questa comunque è la guerra della NATO contro la Russia. Sicuramente. Già è un conflitto mondiale. Non sono per niente indulgente con Putin. Io ero tra i giovani del G8 a Genova che contestavano gli otto grandi, tra i quali c'era anche Putin, e ci siamo presi la nostra dose di manganellate. Come un ponte per denunciamo, purtroppo non avendo grande eco sulla stampa, delitti, crimini fatti dall'esercito russo e dal suo alleato Assad in Siria, e per cui non sono sospettabile, insomma, e rimando al mittente eventuali accuse di essere amico di Putin. Non sono amico di Putin, ma è chiaro che quella è una guerra a corresponsabilità, l'aver espanso la NATO fino ai confini della Russia, aver costretto di fatto, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, i paesi neutrali a non avere alcun ruolo politico nell'Unione Europea, e dunque siano di fatto stati indotti ad aderire anch'essi alla NATO, la Finlandia, la Svezia, è una menomazione del processo europeo. Oggi europeismo e atlantismo non sono la stessa cosa. L'Europa che vediamo è ormai atlantica, il pensiero unico delle stelle strisce degli Stati Uniti d'America. Non era accaduto, per esempio, nella seconda guerra del Golfo, quando Francia e Germania si dissociarono, non parteciparono alla guerra. Qui non abbiamo un solo paese dell'Unione Europea che in qualche modo ha sviluppato un'iniziativa diplomatica per evitare e far terminare il conflitto e la carneficina. E sono tutti allineati, purtroppo, sulla linea oltranzista di alcuni settori degli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti in America, a cominciare dagli alti gradi dei militari, non tutti sono d'accordo su questa danza macabra sull'orlo del burrone. Ebbene, adesso sì, tante cose vorrei dire, però ovviamente diciamo mi tratterrò dal chiedere tante cose, ma almeno due mi vengono in mente subito. Dopo aver visto soprattutto la presentazione del quadro, insomma, di Picasso, della Guernica, e aver ricordato la strage di Puccino. Quindi due osservazioni. La prima riguarda la libertà di stampa e la pessima qualità dell'informazione dell'Italia. Perché in un recente studio, un'indagine che è stata fatta, ho visto che siamo finiti 58esimi nella classifica stilata dal World Press Freedom Index, praticamente anche superati dal Gambia, e questo mi fa pensare che appunto la libertà di stampa non è messa a repentaglio solo da Putin, ma anche qui in Italia. Questa è la prima cosa che mi viene in mente, perché moltissime informazioni sono distorte, sia provenienti dai telegiornali, quindi dalla televisione, che dai vari organi di stampa. E poi quello che diceva prima Alfio, interessantissimo, reale, lui l'ha visto con i suoi occhi, e cioè che sembra davvero che l'Europa rappresenti un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro rappresentati invece da Stati Uniti, Russia e Cina. E quindi mi rifaccio a quello che diceva prima Mario, non si vede, chiedevi appunto come si fa a far terminare questo conflitto, anche per procura, come diceva Alfio. Sembra sempre più difficile sia la via diplomatica che la parola fine di una guerra che, come tutte le altre guerre non dimenticate ma surclassate, forse da questa dovrebbero davvero terminare in tutto il mondo. Quindi le due osservazioni, più che domande, sono la mancata libertà di stampa e l'errata comunicazione che c'è in Italia, ovviamente anche altrove, ma mi concentro su di noi, riguardo a questa assurdità, perché non la vorrei neanche chiamare guerra, e questo fatto che noi come Europa, così culturalmente avanzati, rappresentiamo quasi un vaso di coppia, un burattino nelle mani degli Stati Uniti, della Cina, della Russia stessa, della NATO. Non so che ne pensate voi, Non so cosa riguardo. Allora, io penso che bisogna trovare le soluzioni, di far sedere a un tavolo le rispettive parti per trovare una soluzione. Bisogna uscirne. Alfio, ma le sanzioni secondo te sono utili? Dalla nostra esperienza, noi abbiamo un'esperienza in Iraq, le sanzioni servivano solo a cementare regime, colpivano invece la popolazione. Noi abbiamo fatto una campagna nella nostra trentennale storia con Pontefeyre contro l'embargo all'Iraq, perché decine di migliaia di persone, in particolar modo i bambini, le persone più deboli, crepavano sotto per malattie curabili, perché non c'erano più i potabilizzatori, non c'era la possibilità di avere i pezzi di ricambio per le incubatrici e via dicendo. Per cui le sanzioni sono sempre qualcosa. A danno dei. Le sanzioni vanno utilizzate con grande parsimonia, con grande intelligenza, possono servire per colpire alcuni gerarchi, però anche lì il problema fondamentale è che fino ad oggi non sono servite a far arretrare l'economia russa. Da questo punto di vista siamo di fronte a un oggettivo fallimento. Questo non significa che la popolazione russa sta vivendo bene questa cosa, specialmente le madri dei soldati a fronte non lo stanno vivendo benissimo, anzi. Noi abbiamo raccolto e stiamo facendo questa campagna a sostegno degli obiettori di coscienza, sia russi che ucraini, con una raccolta di firme online alla Ursula von der Leyen, affinché l'Unione Europea dia protezione, apra le frontiere a chi fuggirà la guerra e non invece contribuisca a consegnarle in mano ai loro macellai, diciamo così, per utilizzare un termine da prima guerra mondiale. Che è molto simile, tra l'altro, questa è una guerra che ricorda tanto la prima guerra mondiale, anche per il ruolo che hanno i nazionalismi in questa cosa, i confini, addirittura la guerra di trincea abbiamo visto ritornare dopo tanti anni. È necessario ovviamente lavorare per una soluzione negoziale, perché non esiste soluzione militare, lo dice il generale Milley. Non esiste soluzione militare della guerra in Ucraina, né per i russi, che non possono pensare di conquistare un paese di 600.000 chilometri quadrati, di 40 milioni di abitanti, così esteso, non è più il tempo delle occupazioni dei militari dei paesi, e al contempo non lo è per l'Ucraina, che non può pensare di risolvere militarmente, di riprendersi tutti i territori occupati da Putin. Cosa dice l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, citato da tutti per giustificare il legittimo diritto all'autodifesa dell'Ucraina? Un paese sovrano invaso ha diritto all'autodifesa. Però non viene mai letto tutto questo articolo 51. Prosegue dopo aver ribadito il diritto all'autodifesa di un paese aggredito, fin tanto che questa autodifesa è legittima, fin tanto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non assume un'iniziativa per risolvere il conflitto per via diplomatica, per via del negoziato. Ed è quel fin tanto che non abbiamo visto fino ad oggi, perché tutti i tentativi sono stati oggettivamente boicottati. Vorrei ricordare che quando il segretario generale delle Nazioni Unite si è presentato a Mosca il giorno stesso a Ramstein, una base degli Stati Uniti nel cuore della Germania, gli Stati Uniti hanno fatto un vertice della NATO per mandare le armi, il primo contingente importante di armi. È chiaro che la credibilità delle Nazioni Unite in quel caso era zero, perché è evidente che gli Stati Uniti avevano deciso un'altra cosa. Ovviamente vi sono molti crimini di guerra che vengono perpetrati. Ieri la Presidente del Consiglio è stata a Bucha, che è una di queste città alla periferia di Kiev, dove sono stati fatti diversi casi efferati nei confronti della popolazione civile, ma vorrei dire che purtroppo questa è la guerra contemporanea, moderna, noi l'abbiamo vista in Iraq. Se l'onorevole Meloni venisse con noi a Fallujah, gli faremmo vedere le fosse comuni o la storia di tombe di persone bruciate vive dal fosforo bianco delle bombe della NATO che sono state usate sulla città di Fallujah, no? Migliaia di morti in modo atroce, perché il fosforo bianco non si spegne neanche se ci butti l'acqua, neanche se ci butti le coperte. I medici ci raccontavano delle cose terrorizzanti da questo punto di vista, non sapevano come intervenire di fronte all'agonia di queste persone. Questa era la civilissima civiltà occidentale che ha prodotto quell'orrore. Lo facciamo perché ricordo questa cosa perché c'è una rimozione, no? Prima Annalisa ricordava la questione della stampa. Io veramente mi vergogno di vedere tante colleghe, anche colleghi e colleghe del servizio pubblico, più che impedente, addirittura a cavallo dei carri armati, no? Definiti liberatori, via dicendo. Un'informazione così allucinante, addirittura consentono alcuni giornalisti di giocare sui droni per colpire le postazioni russe. Ecco, io penso che ci sia un'etica del nostro mestiere che andrebbe ribadita, ci dovrebbe essere un ordine dei giornalisti che dovrebbe richiamare, e invece siamo veramente a cose realmente imbarazzanti, no? Se pensiamo al giornalismo italiano, è il giornalismo di Ilaria Alpi, di Baldoni, insomma, di persone che hanno perso la vita informando effettivamente su ciò che stava avvenendo in quelle guerre, un po' fa specie vedere questa cosa, come si è ridotto il servizio pubblico. Mi spiace perché io conoscevo alcuni di questi giornalisti e giornaliste e in altri contesti si erano dimostrati seri professionisti. In questo sono del tutto una protesi della propaganda militare a tutti gli effetti, ben da tutti gli effetti. Tra l'altro noi eravamo permessi di scrivere ad Amadeus durante poco prima del festival, chiedendo di fare la cosa che abbiamo fatto col movimento non violento oggi, portare tre pacifisti o gli obiettori di coscienza sul palco di Sanremo dei due paesi, anche la Bielorussia che è parzialmente indirettamente coinvolta, no? E non c'è stato risposto, si è preferito buttare benzina sul fuoco della propaganda bellica, no? E qui dobbiamo interrogarci sulla necessità di costruire dei canali di informazione alternativi, perché analogamente avviene anche in Russia, ovviamente, no? Ci sono decine di colleghi che sono in galera, qui la guerra è il nemico della libertà di stampa, possiamo dire, no? Che purtroppo dai tempi dell'operazione Restore Hope si insegna nelle accademie militari degli Stati Uniti, no? Quando si fece quell'operazione in cui improvvisamente in tutti i telegiornali del pianeta c'era Sophia Loren che arrivava, sbarcava a Mogadiscio e tutti si accorsero che a Mogadiscio si moriva di fame, che c'erano le bande, c'era, e quello serviva per giustificare l'intervento militare, ovviamente, no? A volte si usa la sofferenza di quei popoli non per indicare e rimuoverne le cause, ma per giustificare giustificare le operazioni militari. Noi abbiamo trovato una retorica in questi tre decenni impressionante, le guerre umanitarie, le guerre per i diritti umani, le guerre per difendere le donne, e poi le abbiamo lasciate in mano ai talebani in Afghanistan appena un anno e mezzo fa. Insomma, non è che rischiamo la sindrome della memoria del pesce rosso, che gira e non si ricorda mai niente, e invece ecco, il nostro compito da giornalisti è quello di ricordare che siamo dentro una guerra mondiale a pezzi, che questa non è l'ultima delle guerre, ma è l'ennesima di un ciclo infinito in cui si è scelto volutamente, invece della pace, di investire nell'insicurezza delle armi e delle spedizioni militari. Basterebbe dire la verità, Alfio, come ci ha insegnato Antonio Gramsci, perché è quello che mi scoraggia, vedere che veramente si dicono tante frottole, tante fanfaluche su questo scempio che sta accadendo, e quindi non c'è una previsione, una via d'uscita, un'ipotesi, cioè questo vaso di coccio, che io così la vedo l'Europa, è destinato a rompersi, ad andare in frantumi ancora di più. Il rischio, oggi c'è stato questo incontro di Biden a Polonia con i paesi dell'est della NATO. Anche questa scelta dovrebbe inquietare un attimo, no? Non so se Biden ha utilizzato sta cosa per tranquillizzarli, per dire, siccome hanno una posizione molto estrema, molto estremista, lo si capisce da un punto di vista della storia, no? Che quei paesi, i paesi baltici, i paesi dell'est europeo sono stati poi invasi dalla Russia, no? A più riprese, hanno subito nella seconda guerra mondiale la Polonia in modo particolare. Sì. Cose pesantissime, dunque la storia conta, non è vero che la storia non conta. La storia conta, però tu hai un'alleanza militare in cui sostanzialmente il rischio è che Biden abbia chiesto a loro quanto intendono perderci di loro in questa escalation del conflitto, perché ormai siamo arrivati alla soglia dei jet, dei caccia che verranno dati, non verranno dati, eccetera. Il prossimo passaggio è quello di mettere gli stivali sul terreno. Perché ma si assiste a bombardamenti, distruzione, la gente che sta nascosta nei rifugi, si vive senza acqua, elettricità, specialmente in questo periodo. E quindi le persone sono sempre più disperate. Tutto questo che fa diventerà e ci porterà più odio e più risentimento. Dalla cooperazione della solidarietà internazionale nei confronti del popolo ucraino è stato molto forte, ma assolutamente insufficiente. Le notizie che abbiamo noi dal nostro partner con il quale lavoriamo sono notizie drammatiche, perché la nuova fase dell'offensiva russa negli ultimi mesi si è molto concentrata sulle infrastrutture energetiche, per cui in alcuni posti manca l'energia elettrica, mancano il gas per riscaldare e sono tanti morti per stenti, per freddo. L'Ucraina fa molto più freddo che da noi e ci troviamo in una situazione in cui drammatica, in cui tra l'altro si inserisce anche le leggi eccezionali promosse dal governo Zelensky, come per esempio alcuni diritti dei lavoratori sono stati cancellati, come il diritto a mantenere il posto di lavoro per le donne che partoriscono. Questo ce l'hanno detto i sindacalisti loro, sindacalisti che sono d'accordo nel combattere la Russia, ma che si rendono conto che si sta utilizzando la guerra per demolire anche le conquiste sociali di quel paese, no? Portando la settimana lavorativa a 48 ore, non pagando le ore di straordinario, perché si dice che Putin e la Russia poi che dovrà avranno quei soldi quando Putin dovrà risarcire il popolo ucraino e dunque gli sarà pagato questo lavoro. Insomma, siamo in una situazione in cui c'è una forte sofferenza sociale, ma anche una fortissima militarizzazione della società. Questo noi facciamo un monumento agli obiettori di coscienza. Analizza, Alfio, come dicevate prima, la storia che lo in- insegna, è l'unica prospettiva reale e credibile per superare questo comune, una svolta diplomatica. Ma in tutto questo scenario, secondo te, Alfio, come si sta comportando l'Italia? L'Italia, io troppo. Allora, tutti i paesi, tutti i partiti nella scorsa legislatura hanno votato con l'eccezione di Sinistra Italiana, e allora c'era qualche parlamentare di Rifondazione Comunista, ex 5 Stelle, che ha votato contro, insomma, e il resto hanno tutti votato a favore delle armi. Inizialmente si diceva che armare l'Ucraina era fondamentale per obbligare la Russia a sedersi al negoziato, no? Perché altrimenti oggi, dopo un anno, abbiamo capito che invece il percorso è una guerra lunga di logoramento, e l'Italia purtroppo si è associata a questa linea oltranzista. Non vedo paradossalmente le posizioni di Berlusconi vengono immediatamente isolate, no? Dice, quelle di un vecchio, eccetera, non, invece sarebbero posizioni ragionevoli oggettivamente, non tanto su Zelensky, quanto la necessità di risolvere per via diplomatica il conflitto. È evidente che l'Italia non sta giocando il ruolo che storicamente si era affidato, c'è il contrario. Cioè, sì, contrario, è l'Italia, che io aggiungo l'Europa. Tutta l'Europa. Sono, la situazione è angosciosa. Un unico soldato, devo dire. Se, purtroppo non è l'unità europea che avevamo desiderato e ce l'avamo battuti, questa, quella di stare tutti dietro la bandiera degli Stati Uniti. E invece sarebbe importante che vi fosse delle voci discordanti. Appunto, il problema è proprio questo, Cioè, oltre a qualcosa che noi possiamo fare a livello umanitario e concretamente da fare, il nostro problema, secondo me, è proprio l'appartenenza alla NATO, o perché l'Europa dovrebbe essere lei il continente sovrano. Hai ragione assolutamente. Ci vuole un nuovo europeismo, perché quello dell'attuale Unione Europea è morto sotto le macerie dei bombardamenti di Kiev, sotto quei convogli di armi che sono partiti. Lì è morta l'Europa, così come anche quel barlume di Europa che avevamo costruito nel nome del mercato unico europeo, eccetera. E che progetto può essere quell'Europa che pianifica nuove cortine di ferro ad est, dunque una nuova guerra fredda? C'eravamo usciti dalla guerra fredda, perché ripiombarci un'altra volta? Che necessità avevamo di portare la NATO fino, invece di investire, che ne so, sull'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea, in una sicurezza comune? Molti all'inizio, anche il presidente Mattarella, ha invocato una conferenza sul tempo di Helsinki del 75, fondamentale. Ma perché era fondamentale? Perché allora si parlò di sicurezza comune. L'idea è che la Russia non possa far parte di una sicurezza comune. Se si è addirittura deciso di inserire, come ha fatto la Duma di Kiev, in Costituzione l'ingresso nella NATO dell'Ucraina e non invece la neutralità. Poi mancano i leader europei di tempo. C'era Mitterrand, c'era Kohl, c'era insomma Palmer, no? Per dire alcune, Willy Brandt. Qui diciamo l'ultima grande leader europea era la Merkel, non a caso la guerra è cominciata quando la Merkel si è ritirata, no? E non c'è più, adesso siamo veramente governati da personaggi di basso livello. Oggettivamente, poi spero sempre di essere smentito, che ci sia qualcuno, un presidente, un primo ministro, un ministro degli esteri. E solo il Papa più volte ha detto che tra Kiev e Mosca la pace è possibile, però poi anche non riesce a anche oggi alla nostra delegazione, anche alla nostra delegazione di donne, però poi non riesce a ricoprire un ruolo di mediatore di pace e magari potrebbe ospitare proprio lui eventuali trattative. Sì, c'è questa mediazione in corso del ministro degli esteri cinese. È stato un tentativo della Turchia e anche di Israele. Insomma, ci sono diversi attori sullo scenario, non siamo più come... Vabbè, poi assistiamo come Yippie e Biden e Zelensky fanno una prova di forza, no? Secondo me una prova di forza. E la risposta della Russia già è arrivata. Si continua ad andare avanti. Si allontana, poi si parla di proiettili, ma mai di pace. Meno male che i servizi segreti degli Stati Uniti hanno deciso di condividere con la Russia il fatto del viaggio di Biden, li hanno informati, perché voi pensate cosa sarebbe accaduto se una bomba, un attentato, un colpo di pistola avesse colpito il presidente degli Stati Uniti sul territorio ucraino, saremmo stati nella terza guerra mondiale. A tutti gli effetti. Dunque, anche queste visite di propaganda si sono potute tenere perché evidentemente questo mi conforta che vi è ancora un filo tenue di dialogo, insomma, sotto traccia, anche se dal punto di vista formale sarebbe opportuno che l'ONU tanto dicasse e nominasse un mediatore, cosa che ancora non ha fatto. Esatto. Potrebbe essere lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite o comunque una figura importante, no? Come mediatore tra le parti. Per farlo chiaramente è necessario che il Consiglio di Sicurezza esca dalla logica della contrapposizione e comprenda che non è più possibile con questa guerra assurda che sta sul serio portando l'umanità verso troppo l'altro. Oggi si parla di questa guerra, però nel mondo ci sono contate bene 59 conflitti che si 59. Sono l'Iran che sta conoscendo una fase di proteste come pochi precedenti, lo scontro tra Kosovo e Serbia e poi questo vicino a noi. Abbiamo l'Etiopia, abbiamo il Congo, ci sono diversi conflitti ovviamente aperti, poi ci sono anche quelli diciamo non terminati. Non ci dimentichiamo che Cipro nel cuore del Mediterraneo è divisa in due, c'è un esercito turco che la sta occupando da parte. Abbiamo tutta una serie, la Libia e quelle situazioni, la Siria colpita tra l'altro da un catastrofico terremoto, non abbiamo avuto iniziative, no, per superare le sanzioni, molto modeste devo dire, quelle deroghe alle sanzioni sono rispetto al dramma, un paese, noi interveniamo su Aleppo, che è una città che ha subito bombardamenti in cui praticamente c'era rimasto poco o niente in piedi con questo terremoto, è andato distrutto. La gente passa la notte all'addiaccio delle tende, i ripari di fortuna. Ci sarebbe tanto da investire per la pace e verso le persone che soffrono. Purtroppo dal 2001 ad oggi, dall'attentato alle guerre, alle Torri Gemelle, alla decisione scellerata di Bush della guerra permanente, la guerra allora al terrore, poi abbiamo sostanzialmente costruito questo mondo insicuro viviamo adesso, la spesa militare globale è raddoppiata. Questo significa che sono tutte risorse sottratte allo sviluppo dei paesi, alla lotta alla desertificazione, ai cambiamenti climatici, alle malattie ubriache. Ma poi oltretutto diciamo, le guerre in generale, però questo conflitto in particolare sta danneggiando naturalmente l'economia dopo aver passato due anni con la pandemia, soprattutto le economie deboli come la nostra. E se osserviamo i dati, purtroppo l'Italia si sta tenendo fino al collo. Poi non parliamo spendiamo soldi per le armi. Hanno fatto saltare. Chi l'ha fatto saltare? Non far prenderci il gas. C'è un'inchiesta di un importante collega statunitense che ha portato... Ma in Italia non se ne parla. Nessun giornalista italiano ne ha parlato. Questo giornalista importante americano non è che è uno sprovveduto. Certo. No, è uno che ha vinto diversi premi internazionali. Non è, la fonte è estremamente autorevole, poi bisogna poi andare a vedere le prove, eccetera, però è evidente che lì quello non era solo un attacco alla Russia, al Gasdot, quello era un attacco alla Germania, perché non ci dimentichiamo che Germania, l'Europa e noi abbiamo... una parte tedesco, i soldi ce l'hanno messi i tedeschi, per cui sono atti di guerra contro l'Europa. Bene. Alfio, Mario, Annalisa, ma voi... sì, questo voglio capire, in soldoni, quindi con questa escalation di azioni belliche, di invio di armi, di morti, e tutto quello che veramente sta accadendo, cioè voi pensate davvero che si possa aggiungere, non so, da qui a un anno, a un altro anno... Cioè, ci sono delle previsioni, si può fare almeno un'ipotesi. Cioè, quando finirà tutto ciò? Io a livello proprio temporale. Dovrebbe finire presto, speriamo presto, perché un po' di senno alberghi ancora nella testa di chi governa questo pianeta, delle grandi potenze, delle potenze medio grandi, perché ripeto, la situazione è abbondantemente uscita di mano, e dunque bisogna, è complicato far rientrare dentro un tubo il dentifricio, è complicato, però ma il problema è che non si lavora nella costruzione della pace, secondo me questo è il problema fondamentale. Si questo parla di armi, si parla dei missili, ma non si parla mai di pace. Per questo fine settimana ci mobilitiamo come Europe for Peace in diverse centinaia di a Perugia, ad Assisi, andrai? No, sarò a Roma, c'è questa marcia notturna, ci saranno diverse fiaccolate, iniziative nelle principali città italiane e anche città minori. Ci sono state centinaia di iniziative di sensibilizzazione. Sarebbe importante parlare alle nuove generazioni, perché insomma il target delle forze mobilitate sono un po' anziane, non possiamo dire, dobbiamo parlare alle nuove generazioni, esatto. Che rischiano il fascino della guerra, rischiano non solo di essere assuefatte, ma anche il fascino della guerra, perché sembra un war games, come lo descrivono i nostri telegiornali, no? Ci vogliono ridurre a tifoserie, o se stai con Putin o stai con la NATO, no? Stai qua la libertà al di là l'oppressione, sono cose che non stanno nel cielo e nel terra, eppure possono arrecare fortissimi danni. Quando vedo che in alcune scuole ormai vi sono accordi con le nostre forze armate per insegnare non ciò che dice la Costituzione, 52 eccetera, ma quanto è bello tenere in mano un fucile, cioè, ci sono anche persone di governo che hanno detto, poi l'hanno smentito, comunque, è uscito fuori, hanno detto che bisognerebbe insegnare agli studenti a sparare, no? Invece siamo nel 50° anniversario della morte di Don Milani, che diceva che l'obbedienza non è più una virtù ma la più subdola delle tentazioni. Credo che se si tornasse a studiare Don Milani faremo solo una cosa buona, insomma, nelle scuole. Insomma. E invece noi non nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa, vero Annalisa? Assolutamente, ma io pensavo anche di fare qualcosa di assai più pratico, come si faranno appunto queste marce, queste fiaccolate notturne, direi di farle anche nelle nostre piccole grandi città, quindi Cavano, Cera, Salerno, un po' anche qui da noi, perché possono essere dei segnali e dei tentativi di avvicinamento, come diceva giustamente Alfio, dei giovani, penso anche ai miei figli, che sono comunque degli adolescenti. Ecco, mia figlia si batte, è iscritta, è una militante di Amnesty International, o qualche mio alunno ho sentito con Emergency, ma anche ecco, far conoscere un ponte perché almeno nell'immediato possiamo veramente aiutare in maniera concreta a mettere un punto a tutte queste, a tutte le guerre del mondo. Quindi impegniamoci anche noi, insomma, non solo a scrivere per i nostri giornali, a fare che ben vengano queste trasmissioni, ma anche e soprattutto fare una fiaccolata. Io penso che potremmo farla pure da noi, Mario, parlare con i nostri amministratori. Qualcosa bisogna fare, bisogna muoversi. Io un articolo lo scrivo di sicuro e cercherò di promuoverla, una fiaccolata qui tra Cavano, Cera e Salerno, perché se il nostro tempo a disposizione, diciamo, è finito, lasciamo pure Alfio perché ha altri impegni. Grazie Alfio, voglio... è stato un piacere, sempre a disposizione. Alfio, ti ricordo, grazie. Che c'è il nostro sito www.ponteper.it, dove ci sono anche, oltre che le nostre posizioni eccetera, anche questa campagna a sostegno dei costruttori di pace e gli obiettori di coscienza dei due paesi in guerra, che sono un ponte reale già presente tra questi due paesi su come si potrebbe fare la pace. Sosteniamo, speriamo che l'Europa si rinzavisca un poco e trovi un suo ruolo importante, perché è preoccupante che l'Unione Europea pensi solo a fornire le armi anziché promuovere negoziati per il cessate il fuoco per la pace. Grazie. Speriamo davvero. Buona serata. Buonasera. Grazie.